siamo dannate, passate sotto scuri di solitudine, e per il turno agire e morire nel fondo. Continuavo a subire il tempo che passava, continuavo a subire il tempo che percorreva, continuavo a subire tutto ciò che mi portava in mare. Io passivo, rimanevo lì per ore, inattivo, e speravo un giorno migliore, poi condussi la mia vita avanti, e una volta pugno e calcio in fondo, poi parlo meno, qualcosa più merda, qualcosa più sperato, e tutto quanto, poi invento, sperdo tutto quanto, in questo tormento in fondo, cercavamo meno bisogno, cambio, è stato odio, rancore, dolore, sangue, tutte quelle volte dannate, per ore, a cercare tra la gente, sempre più differente, i tuoi occhi, e in fondo io non volevo andare a fondo con te, ma ci siamo rimasti. Capivo tutte quelle volte, inseguivo un lamento, capivo tutte quelle volte, tutto quel tormento, capivo quelle volte che era amare, e come sperare qualcosa di migliore, di tornare a pensare, a capire, ad agire, ma non c'era soluzione, il mondo passava per la mente, continuava tutto quel tormento, tutta quella gente intorno portava solo confusione in mondo, confusione in mondo. Gente, mi sono innamorato ancora, fino a consumare il mio cuore, e ora non c'è più niente, non c'è più amore dentro, non c'è più piano, c'è soltanto un vento che porta soltanto un lamento, e anch'esso si disperde, lento, profondo, tutto è tondo, e tutto sembra più possibile, e io più capace. Sono rapace ancora di te, in quel cuore che non c'è, a volare verso adesso mi sembra l'unico gesto che posso fare, ma tornare a te è duro, e tu non mi vuoi, e ti chiami perché quelle volte non rispondi mai, non mi prendi per mano, non ti mando messaggi, ma per la volta di te, non stai come il fratello, la volta di te, parlavo di tutte quelle leggi, per il mio cuore, di tutte quelle volte, col mistero, vedere oltre la nebbia, questi occhi chiusi, racchiusi, confusi, il bisogno di tutti quei sogni diffusi nell'aria, dispersi, come pulviscono in fondo, non colgo più il granello sul